E come annunciato, volevo semplicemente riprendere un testo da Lotta in Nord, dunque un sito di militanti del nord della Francia che in un testo ricapitolano così al volo dopo l'assassinato di Clément. Questo giovane ragazzo che faceva parte di gruppi antifascisti, un ragazzo di 19 anni, studente a Sciences Politiques Parigi. Loro dicono la domenica 2 giugno, 3 giorni prima dell'assassinato di Clément. La Liga di Difesa Ebraia, che è una milizia ultranazionalista pro-Israele, considerata con un'organizzazione molto pericolosa e vietata negli Stati Uniti e anche israeliani, ma tollerata in Francia, ha rivendicato l'attacco di un giovane ragazzo dal nome di Munir e messo nel coma. Il martedì 4 giugno una coppia di donne è violentemente aggredita dopo un presidio di persone antimatrimonio che si chiamano le veilleurs. Una di loro è trasportata al pronto soccorso e prende 90 giorni di prognosi. Il giovedì 6 giugno, Rabia, una giovane donna che porta il foulard è aggredita da due skinhead. E poi, quando lei cerca a denunciare, la polizia gli consiglia di stare zitta. Lo stesso giorno, quando noi stiamo occupando le strade di Parigi per fare un omaggio a Clément, una delle più grosse rattate di persone senza documenti è stata fatta a Parigi. Il 7 giugno noi si svolge il processo contro il poliziotto che è responsabile della morte di Mouchine e la Camille a Villers-le-Bel in 2007, questo fatto che aveva messo in fiamma tutta la periferia di Parigi. E questo poliziotto è stato rilasciato, è lasciato in libertà. E dunque la lista è lunga, e la lista è lunga, significa che comunque, come sicuramente non l'avete capito, lì come qui, le estreme destre e i fascisti come dire, non si vergognano più di sfilare in città, l'hanno fatto per diversi mesi contro il matrimonio gay senza complessi durante mesi, e dunque aggressioni, vessazioni sono di più violenti. La fiducia per quale l'estrema destra è permessa parte e si nutrisce di discorsi e pratiche razziste, xenofobe, omofobi che provengono dalle istituzioni di potere.